i momenti che dicono no. Ci lasciano un poco sgomenti, sono però umori o sentimento, quel sentirsi soli, nube spazzata dal vento, come un'ombra, poi va via, aggrappati spesso ad un filo, fatto di malinconia, il gelo di qualche tormento, poi se ne va, la nube spazzata dal vento, non ha mai l'età, torna sempre un sorriso nel vederla ancora, se l'inverno del cuore ha deciso, cerca il sole dell'estate, le stagioni son parte del tempo, con il vento sono andate. Indietro nel tempo, ora lo so, la gioia e poi il tormento per chi mi lasciò. C'è stato qualche momento nel sentirmi solo, canna piegata dal vento, un istante di follia. Si vaga spesso nel vuoto, con il cuore in agonia. Il gelo sentito quel tempo, poi se ne andò. Il sole ed un altro momento, ho trovato però. Se in mente torna quel viso, fa male ancora. Rimane nel cuore l'inciso di un'estate che è svanita. L'amore resiste nel tempo alla storia che è finita. Per amore qualche dolore per pagare ancora. Il prezzo voluto dal cuore per la gioia di qualche ora. Na na na na na na na na na.